24 mattino di Alessandro Milan. Quando parli sembri laureato in tuttologia, sai tutto tu, e poi con quella voce martellante che ti prende dal cervello, ma come si fa a ascoltare una persona così di prima mattina? Un nouveau président de la République et ont voté pour la continuité. Par ce résultat historique et massif, les Français ont désigné l'Alliance patriote et républicaine comme la première force d'opposition. Je défendrai l'Europe, la communauté de destin que se sont donné les peuples de notre continent. C'est notre civilisation qui est en jeu, notre manière de vivre, d'être libre, de porter nos valeurs, nos entreprises communes et nos espoirs. J'œuvrerai à retisser le lien. È il primo discorso del vincitore delle elezioni presidenziali francesi, Emmanuel Macron, presidente francese, mentre Marine Le Pen è stata sconfitta al ballottaggio. E dunque c'è il presidente europeista che ha fatto tutta la campagna in favore dell'euro e dell'Europa. Dell'euro e dell'Europa. Prendete nota in Italia. Europa ed euro. Contro la più eurofobica che ci fosse in Europa, Marine Le Pen. E infatti tutti i giornali titolano che la vittoria di Macron va letta così, insomma una vittoria per la Francia e per l'Europa, l'Europa unita. La frase migliore oggi la dice Enrico Letta, ve lo ricordate? Enrico, stai sereno. Intervistato dalla stampa dice: ha vinto un europeista convinto in Francia, mentre in Italia abbiamo una sfida tra euroscettici, eurofobici, eurotimidi. E infatti Macron ha festeggiato sulle note dell'inno alla gioia di Beethoven, l'inno dell'Europa, Per il resto poi non bisogna esagerare. Caro presidente De Luca, questo sempre, Non bisogna fare come la Roma ieri, non bisogna esagerare. Allora vediamo di capirci bene. Vediamo di capirci bene. Questa è 24 mattino. Sono le 6:32 minuti. Si siamo qui. Pallone, a Milano. Sarà ancora per Dzeko. Che partito! Rete! Gran gol di Dzeko. Signori, ho una grande notizia per voi. Ho Dzeko al fantacalcio. Signori, due gol. E andiamo. Quando ho sbagliato il terzo, ho detto no! C'è un tripletta. Già avevo la tripletta al fantacalcio. Questo è 24 mattino, c'è Lorenzo Nespoli in redazione, c'è Peter Bescapè in regia, ci sono 10 gradi a Pescia Romana, come ci fa sapere Edoardo, mentre a Melazzo ci sono 10 gradi ed è nuvoloso, ci fa sapere Paolo. A Palestrina, 11 gradi, cielo limpido. Ah no, ecco, mi ero preso un po' dall'inno alla gioia. Eccola lì che parte il refrain, è stato letto dalle banche. Mamma mia, che palle, ragazzi. Macron. 5 gradi in Ohio, ci fa sapere Matteo, ci ascolta dall'Ohio. Chissà se uno dei nostri ospiti avrà qualcosa da dire su Matteo, che ci ascolta dall'Ohio. Va bene. A Rimini, leggermente nuvoloso, ci scrive un ascoltatore, ci sono 11 gradi e mezzo. Mentre Carlo ci dice che ci sono a Virgilio nel senso di paese. Wow, Lorenzo, vedi un po' Virgilio. No, quello di... il traghettatore. 12 gradi e 4. Bah. Saluto subito, visto che mi hanno detto speriamo che non ci sia almeno oggi Mario Dinolfi. Speriamo almeno oggi. Ciao Marione. Eccoci, buongiorno. Marione è ossessionato da alcune cose della Francia, alcune poi adesso le sviscereremo. Intanto come ti senti nell'anno in cui avete fatto il triplete? È un'emozione secondo me grandissima e devo dire minchino perché sono emozioni che io non ho mai provato e invece gli interisti sì, gli juventini sì. Intanto bravi, Juventino bravi. Di Roma va a virarsi lo scudetto all'Olimpico. Questa è una cosa molto bella, diciamo, che noi domenica giochiamo con la Roma e lo scudetto lo vinciamo a Roma, quindi per uno juventino testaccino questo era un gran momento di gioia. Va che te menano, domenica te menano, stai attento. Ma il popolo mi ama. Stai attento a non esultare, troppo, non esultare troppo. Mi ci vedi, sarò misuratissimo. Proprio. Sì, sì, secondo me ti alzi alla fine e dici vabbè dai, è scudetto anche quest'anno, complimenti alla Roma. Congratulazioni alla Roma per la bella stagione, bravo Spalletti, un saluto a Totti per la sua leggendaria carriera e ti è piaciuta. No, guarda che così no, te menano, fai il bravo, fai il bravo. Vabbè ragazzi, l'arroganza degli juventini è una roba insopportabile, Che bella cosa. Ma tu un briciolo di empatia, sai quell'atteggiamento per cui ti immedesimi un po' negli altri? Solidarietà per i poveracci, hai ragione, andrebbe provata. Sì. Allora, ecco esatto, sì, un po' più caritatevole e cristiano, invece di essere così arrogante. Allora, insieme a Maria Dinolfi saluto il quasi omonimo Carlo Rienzi del Codacons. Buongiorno. Come va? Perché ieri anche il quasi omonimo ha avuto il suo momento di gloria, attenzione, mentre là c'è Macron, qui c'è Renzi che insomma torna e dice dalle liste collegate a Matteo Renzi. Sì. 1.250.091. Che esultano per la proclamazione al segretario. Si proclama Matteo Renzi segretario nazionale del Partito Democratico. Bravo! Beh, avvocato, complimenti. Ah no. Io che c'entro? Io sono solo preoccupato per la salute di tutti quelli che stanno nei 21 comuni. Aia, Pomezia. Che sono stati soffocati dalla nube tossica dell'incendio. Una cosa veramente incredibile. Spero 21 comuni che non possono mangiare la verdura, che non potevano uscire di casa, tenere le finestre chiuse, e nessuno sapeva, e si è scoperto che l'anno scorso il comitato di quartiere aveva scritto al sindaco, ai vigili, dicendo lì scoppia un incendio, fate qualche cosa. Ma vi pare possibile in Italia che la ASL non sappia che c'è l'amianto sui tetti dappertutto in quella zona? Noi oggi facciamo partire, scusate se lo dico, un'azione collettiva sia in sede penale che civile per i danni di tutti i cittadini di questi 21 comuni. Quindi andate sul nostro sito e troverete come aderire. E la prima causa del giorno l'abbiamo sistemata. Alle 6 del mattino. 6:38 del mattino abbiamo già fatto. Ma una bella causa di Dolfi per le robe che dice, tipo questa. Allora apriamo il Parlamento. Apriamo il Parlamento. Ragazzi, se uno esce e prende un caffè, Marione, guarda, così, adesso tu mi devi dire una cosa, perché sei ossessionato da questa cosa di Macron e la moglie. Un'ossessione ce l'ha. Ieri ha scritto in Francia hanno eletto il primo presidente donna. Ma che vuol dire? Ma la battuta non è mia, è di Marine Le Pen, l'ha detta lei durante il dibattito presidenziale. Come ho spiegato. Scrivendo... Ma che vuol dire? Perché cioè, vuoi dire che è omosessuale? Dai, dilla fino in fondo. Marine Le Pen disse durante il dibattito: o vinco io o vince comunque la Merkel. La prima telefonata che ha ricevuto Macron è stata di Angela Merkel, una lunga telefonata. Allora, quello che è successo ieri in Francia, voi ovviamente di politica non capite niente, ma il dato importante è che si rafforza in maniera incredibile un asse franco-tedesco che non fa bene all'Italia. Mm. Macron è esponente di quell'ala massonica francese, guidata da Jacques Attali. Insomma, ieri con la piramide, proprio l'iconografia era scelta in maniera precisa. Non è neanche misteriosa la cosa. Ma Macron tiene convegni al grande Oriente di Francia esplicitamente, non è che è una cosa nascosta. Il Jacques Attali è uno che ha teorizzato, scritto e teorizzato che la Francia si salva solo attraverso un'azione europea di asse franco-tedesco che arriva alla spoliazione dell'Italia. E qui l'asse franco-tedesco, ma che vuol dire il primo presidente donna? Che la presidente, la Merkel, fondamentalmente, questa è stata l'incoronazione di Angela Merkel, regina d'Europa. È avvenuta ieri, tutti i vostri occhi, non ve ne siete accorti perché pensavate a Brigitte, perché questo, quando io ho scritto quella cosa, ti stai un po' salvando in corner. Un intervento alla Franco Baresi dei bei tempi, in corner, hai fatto un intervento. Leggete, poi dopo, ovviamente il fatto che sia sposato con la 75 non la vedo come una cosa di normale personalità, l'ho scritto, lo penso e lo ripeto. Di normale personalità, ma perché? Cioè, questa cosa, ma perché? Invece Trump... Mi non mi ci metto. Perché? Io non mi ci metto, ma complesso Edipo. Edipo non è propriamente un film di Vantina, è una tragedia greca. Insomma, pensa che dicono che il vero complesso edipico ce l'ha Marine Le Pen, c'è cioè il problema col padre, non sarebbe edipico, sì, ma vabbè, adesso le nostre. No, no, il padre con la figlia. Ignoranza, terrificante, ma va bene. Ma come no? Vabbè, insomma, questa cosa, non so, Renzi, vabbè. Tenete presente che c'è stata un'astensione, un francese su tre non si è espresso. In tutto il mondo ormai c'è sempre una grande parte dei cittadini che solo perché non si esprime non viene considerato e non viene pensato che queste persone non sono d'accordo. Quindi le società si spaccano, ormai l'abbiamo visto, si spaccano a metà, a un terzo. Poi non ho capito se a Brigitte che non gli lascia la mano che vuol dire. Io non. Oggi sul Corriere della Sera c'è questa immagine. Ma quello è colore. Ma la mamma quando attraversi la strada non ti lascia la mano. Ma dai, ma quello è colore, mamma mia. Fatemi capire che vuol dire. Ma che vuol dire? Ma niente, cioè. Mi piace la milfona, ho capito. Mi piace, mamma mia, ma vedi, ma chi se, ma pensa che pure la Le Pen, di fronte all'intervista, quando è stata intervistata da Cazzullo, gli hanno chiesto del padre, del marito, Macron, e ha detto: ma io sulle cose personali non entro. Ma che ti frega se è sposata con uno di 24? Il privato è politico, ma su Berlusconi, sulle cose personali, gli abbiamo fatto una capoccia ho capito. E infatti, dicendo che cosa, siccome si scopava le ventenni era bravo, bello Nerboruto, bello Nerboruto, Nerboruto, bravo, virile, uno così sì che sa guidare la nazione, virile. Erano fatti suoi. Ma non erano fatti suoi, sono diventati fatti politici, no, addirittura giudiziari, figuriamoci. Ma la verità, Marione, tu non lo vuoi ammettere, ma è l'idea che se Berlusconi, se Putin, se Trump si fa Melania Trump, è virile e quindi può buttare i missili forti contro la Nord Corea. Invece quello è un mollaccione che sta con la 64enne. È diverso, ha un atteggiamento che va psicologicamente indagato. Se tu stai attratto dalla più giovane, attiene alla fisiologia, alla biologia, alla natura. Se sei attratto da tua madre, c'è qualcosa che probabilmente va indagata, perché non è normale, non è normale. Abbiamo un presidente oltralpe che non è normale, attenzione, non è normale. Non è normale dal punto di vista dell'attrazione. Della sua dimensione psicologica, perché se a 15 anni ti piace la maestra di 40 è normale, ma se la quarantenne lascia marito e tre figli e si mette col quindicenne, a parte che ci sono rilevanze penali enormi sull'accordo del genere, non in ma Francia, da questo punto di vista scatta qualcosa che non ha a che fare con la normalità. La biologia e la biologia. Vabbè. Perché tu non hai questo. Ho capito. Nella natura non è scritta così. Pensa che a me aveva incuriosito più la posizione di Rienzi su cosa massone, piramide. Rienzi, qua se si fosse in Italia sarebbe da materiale per indagare. Per il cosa. Cosa? Quale? No, cosa? Niente, che Macron si è presentato la piramide, i massoni, il grande... Ah, vabbè, certo. Banchiere, ma ormai l'abbiamo accettato, quindi non capisco di che cosa ci si meraviglia, no? Se solo andiamo a fare il conto di quelli che sono in Italia, tra i politici, che almeno la metà saranno iscritti alla massoneria, per carità, libertà di associazione, diciamo così, no? Allora la massoneria dovrebbe essere la cosa più potente che c'è. Sì, la differenza forse infatti è molto potente. Okay, qual è la differenza? Che, che lui sceglie di fare proprio l'iconografia. Guardate come piazza la telecamera, il discorso al centro della piramide esattamente. I simboli lì sono assolutamente cercati, voluti, spiegati per immagini in maniera netta. Lo ripeto, non lo nasconde. Macron non è uno che lo nasconde. Fammi Macron capire, ma tu preferivi... Ma tu, d'Europa. Sì, ma tu preferivi la Le Pen, così giusto per capire? No, non preferivo la Le Pen. Avrei votato scheda bianca come il 12% dei francesi che credibilmente sono andati alle urne per votare scheda bianca. Pensa un po' te. Sì, cioè uno va a votare scheda bianca al ballottaggio. Guardate che noi non ci siamo. La cosa più stupida in politica, soprattutto guardando alle elezioni estere, è tifare. Quello che è interessante è capire cosa cambia quando un presidente del genere inciderà sui nostri destini, e quelli questo, italiani. Sì, e questo è chiaro. Questa è una cosa interessante. Non la nonna, non la mamma. Non... Beh, insomma, la mamma e la nonna un po' ti ha incuriosito. Ecco. Ah, certo, ne parlo, come ovviamente se ne è parlato in Francia. Ci sono quintalate di giornali che hanno fatto inchieste su questo in Francia. Ma quello che mi interessa di più è cosa cambia per gli italiani. Se arriva un massone dominato dalla posizione di Jacques Attali, e Attali è probabilmente dal punto di vista dei massoni il punto più alto della logica massonica in Francia, che è teorizzante un asse con i tedeschi per far sì che l'Italia sia spogliata, e questo dice Attali, perché un paese col nostro debito pubblico e questo preoccupa, va spogliato dal punto di vista europeo, e questo è un problema. È un problema. Andiamo al traffico, però, che poi parliamo anche di cose italiane tra poco. Manda il traffico. Per la cattura di Igor ci pensa Barbara D'Urso, non vi preoccupate, con le sue telecamere. Il problema non sono i cervelli che scappano, è che quelli che non hanno voglia di fare un cazzo sono rimasti in Italia. È lì il problema. Milan, non volete capire che il canale di Sicilia è molto più a nord? I giornalisti devono smetterla di pubblicare delle notizie circa dei salvataggi estremi nel canale di Sicilia. Lì ci sono dei taxi del mare che fanno la tratta più lunga e passano da Malta, la quale rifiuta di ospitarli. Noi invece li ospitiamo perché siamo buoni, perché abbiamo il Papa. Quindi segretario, io ti faccio i miei auguri, ti saluto con un po' di ironia ma anche con grande emozione. Hasta la victoria, segretario. Ma come? Ma Emiliano, hai sentito Rienzi? Hasta la victoria, segretario. Ma Emiliano, io non capisco. Ma perché? Perché così si sentono grandi, si sentono come i nostri idoli della giovinezza, del 68, degli anni 70, no? Quando noi eravamo tutti rivolti con il viso verso la Cina, Cuba, insomma, noi di sinistra, quando c'era la sinistra. Quando c'era la vera sinistra, la vera sinistra. Però, signori, Renzi che è tornato e che dice nessuno mette in discussione Gentiloni, però intanto fa una bella cabina di regia in cui incontrerà ogni tanto degli esponenti del governo una volta a settimana per vedere come vanno, berranno un caffè, no? E ad Adinolfi delle immagini saranno lì a dire come va? Vuoi un caffè, cappuccio, bello, marocchino? Sì, tutto a posto, va bene. Ha detto, ecco, dopo c'è la palude. Non mi preoccuperete. tanto di Renzi, ma no. vi state rendendo conto, diciamo, che l'alternativa che è Di Maio? Che Di Maio, no, non lo so, sì, no, vabbè, no, questa è una questione ulteriore. Fra un po' dovremo scegliere tra? Tra Renzi e Rienzi, non lo so. No, Rienzi non credo, però forse Adinolfi. Renzi e Di Maio, Renzi e Di Battista. Di Battista, ID. Sì, effettivamente sì. Facciamo una valutazione su questo, no? Ma non lo so, sempre siamo sempre lì. Io non capiciterò mai del perché ci concentriamo sempre sui nomi, però è così. Però adesso Adinolfi ci spiegherà che sono i nomi che contano, le idee chi se ne frega, no? Cioè noi dobbiamo vedere Di Maio, Di Battista, Renzi, cioè le idee, i programmi, no? Ma tanto chi li legge? I nomi contano, è indubbio. Veniamo appena adesso da una campagna che ci ha appassionato da italiani. Era sui nomi e abbiamo sviscerato i nomi, insomma, sì. Quella americana era una campagna sui nomi. È inevitabile che la leadership abbia il suo peso determinante. Ma d'accordo, però non è che possiamo dire dobbiamo scegliere, giustamente Renzi dice chi dobbiamo scegliere, Di Maio, Di Battista, no? No, perché proviamo a immaginare tra Di Maio e Di Battista, no? Allora c'è uno che va senza cravatta, che è rivoluzionario apparentemente, che prende sempre posizioni molto estreme, eccetera, e un altro che è tutto contento ieri dall'annunziata diceva abbiamo ricevuto ad Harvard un invito ufficiale, sono andato lì ad Harvard e appena arrivato mi hanno detto guardate che questo è di destra, però a me non importa, ho detto, poi ho spiegato, alla fine hanno fatto vedere un'immagine in cui praticamente però non si vedeva nessuno, sì, e sì, questa sì. È una tecnica, no? Ci saranno stati 10 gatti ad Harvard. Vabbè, per carità, sei. No, però è tutto un po' costruito, insomma, non è che sì. Prendano un tema, che ne so, il reddito di cittadinanza e spiegano, cioè, no, noi questo si differenzia da quello adesso. Di Renzi per questo e questo chiunque questo non è vero, almeno le spiegano le cose, no, su questo no, però aspetta, no, ma voglio sapere questo, invece Renzi è partito, ecco, sarà contento Adinolfi, perché Renzi da cosa è partito? Lavoro, casa e dai, dillo tu Mario. È mamma, gli italiani, però i nomi sono dimenticati, la mamma, adesso ci piglieranno per il culo in tutto il mondo, la mamma, gli italiani, le mamme, mammoni, no, io ovviamente ha dimenticato i nonni, se appunto ovviamente i nonni sono importantissimi perché i giovani si appoggiano ormai ai nonni disoccupati, ma ovviamente lui intendeva Renzi le mamme, il lavoro, l'importanza delle mamme, e questo è un tema serissimo, per carità, non voglio sminuire, ma le mamme, ma puoi dire la mamma, un punto, noi abbiamo Macron, l'Europa, dice noi, la mamma, Renzi la mamma, allora perché non i nonni, giustamente Renzi, perché non i nonni, che siamo un paese di vecchi peraltro, e quindi sono più nonni che mamme, poi la maggior parte dei giovani disoccupati sono ormai mantenuti dai nonni, i disoccupati sono, e poi soprattutto anche i disoccupati sono soprattutto cinquantenni, perché le mamme, Adinolf, Marione, ma sarai felice, no? La mamma, è un tema sbagliato, come verrà declinato come al solito, credo sia un po' un problema per Renzi, per tante ragioni, che la famiglia, chiamiamola naturale, non ha dato grande attenzione, insomma, quindi oddio, se andiamo a Adinolfi sulla famiglia siamo fregati, io me ne vado. Adinolfi sulla famiglia adesso, vai. Se senti Adinolfi sulla famiglia, no, io no. Vabbè, ma se siamo tu hai dubbi, va bene pure sentire sulla famiglia. Il tema secondo me è centrale, abbastanza fondamentale. La declinazione, come al solito, è generica. Credo che il tema vero sarà per questa campagna elettorale delle politiche capire chi ha intenzione di rimettere veramente dei soldi in tasca alla famiglia. Sì. Da quello che vedo, ma questo è importante. Non, questa cosa non la propone nessuno. Ma questo infatti il tema in sé è importante, le mamme, il lavoro, le donne, ma mette così la mamma come la scelta degli hashtag, sai che è sempre una mamma mia ragazzi, lavoro, casa e mamme. Stiamo discutendo. Quindi vuol dire che forse ha azzeccato pure la mamma della cosa, sì, vabbè, insomma, per dire che magari forse stiamo discutendo, per dire che forse ci voleva tutti i giornali l'Europa stamattina, che mamma, ma l'Europa è una parola vuota come tante. Cristo, ma senti come suona, mamma. La distinzione francese fra europeisti e anti-europeisti ha portato a bancarotta. Vediamo cosa succede in Italia. Comunque ti vedo molto entusiasta e ti sento galvanizzato. D'altronde l'anno del triplete va festeggiato così. Bravo Mario Ninolfi, complimenti tra l'altro, ancora te li faccio, perché tre trofei in un anno è davvero un grande trionfo. Viva! Bravi, bravi voi della Juve e il triplete di quest'anno. Insieme a Mario Ninolfi c'è Carlo Rienzi, presidente del Codacons, e vi do appuntamento alla prossima. Il segnale orario vi è offerto da Unica, l'assicurazione con la Q di qualità. Pensa Unica. 1, 2, 3. Adesso, tra poco ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. Sono le 7:20 minuti e ben ritrovati. Riparte una settimana di 24 mattino con la rassegna stampa. Noi siamo partiti per la verità alle 6:30, ma voi, debosciatelli miei, quanto tempo è che non vi chiamo così? Debosciati miei, che vi siete svegliati solo quest'ora. Noi siamo in pista già dalle 6:30 qui in diretta. Ma ora andiamo a leggere i giornali che, come potete immaginare, si concentrano soprattutto sulla vittoria alle presidenziali di Macron in Francia. Andiamo! Alino, il primo debosciato sei tu! E si sa, vi ricordo anche da un po' di tempo che inizia oggi la 210ª settimana decisiva per l'abolizione delle province. Ebbene sì. E questo è da registrare. E così come inizia la settimana decisiva anche per la riforma elettorale, la solita settimana decisiva, la 21esima per la precisione, per cambiare la legge elettorale da quando siamo ripartiti. E Ale, speriamo che siano settimane che possano regalare qualcosa. Lunedì 8 maggio, intanto i titoli, le aperture sono tutte sulla vittoria alle presidenziali di Macron. Vince Macron per la Francia e per l'Europa, questo è il titolo del Corriere della Sera. Repubblica, Macron, la svolta dell'Europa. Per la Stampa, Francia, trionfo di Macron per l'Europa. Il Messaggero, ciclone Macron, rifondare l'Europa. Come vedete, tutti i giornali puntano proprio anche sulla svolta europeista, insomma il candidato europeista che ha vinto contro la più eurofobica Marine Le Pen. Voilà Macron è anche il titolo del giorno. E poi andiamo ai titoli un po' più provocatori, come il Fatto Quotidiano: la Francia vota il meno peggio, Macron presidente, mentre Libero vince il bamboccione, è il titolo. Il Giornale invece: di sola destra non si vince, lezione di francese, Macron presidente con il 65%. L'apertura invece è il Sole 24 Ore edizione del lunedì, lo vedremo con Mauro Meazza. 6 anni di spending review non frenano la spesa pubblica, è il bilancio degli interventi messi in campo dal 2011 al 2016 che non hanno portato a tagli alla spesa pubblica. Ma voglio partire proprio dalle elezioni francesi con la vittoria, la cronaca intanto. Stefano Montefiori racconta, pagina 2 e 3 del Corriere della Sera, la vittoria alle presidenziali di Macron, 65,7% a 34,3%, quindi una vittoria netta nei confronti di Marine Le Pen. C'è da dire anche che sono stati moltissimi coloro che non sono andati a votare, 1 su 3, e è la prima volta che capita un livello di astensionismo così alto in Francia, così come il numero di schede tra bianche e nulle, il 10%. Beh, tantissimi che sono andati al ballottaggio, e quindi un'elezione particolare perché si sceglie tra due candidati, hanno votato scheda bianca. Comunque Emmanuel Macron, 39 anni, è il presidente più giovane al mondo, scrive il Corriere della Sera. Beh, non sapevo questa cosa, addirittura al mondo. La Francia ha vinto, grida Emmanuel Macron appena salito sul palco del Louvre dopo aver camminato per alcuni minuti da solo davanti alla folla, accompagnato dalle note dell'inno alla gioia di Beethoven, inno ufficiale dell'Unione Europea. Anche qui c'è da dire elemento sicuramente innovativo, cioè si è presentato non con l'inno di Francia ma con l'inno dell'Europa. una scenografia da grandeur, un'espressione solenne sul viso del presidente più giovane al mondo, che ha appena dimostrato come ci si può sentire patrioti ed europei, rivendicarlo, farne coraggiosamente il cuore della propria proposta politica e vincere le elezioni, proprio in tempi di Brexit. Al suo arrivo la gente sventola il tricolore francese, bandiere europee che negli ultimi anni saranno più viste nelle piazze di Tbilisi o a Kiev o in paesi come la Georgia, l'Ucraina, piuttosto che nell'Unione. Macron ha scelto l'esplanade del Louvre per la festa della vittoria perché non ha paura di essere maestoso quanto serve e perché il Louvre è perfetto per il presidente che vuole essere. La sua audacia è quella di aver giudicato destra e sinistra dei morti che camminano, come ha spiegato nel suo libro Rivoluzione, appena uscito in Italia. Alcuni pensano che il nostro paese sia in declino, ha scritto Macron, che il peggio debba arrivare. Ed evoca qui tutta la retorica della destra frontista. Poi prosegue, altri pensano che la Francia possa continuare più o meno così, scendendo la china, ma una china non troppo ripida, che il gioco dell'alternanza politica basterà a darci un po' di respiro. E qui evoca la presidenza socialista di Hollande. Io invece sono convinto che abbiano torto, che il fallimento dipenda semplicemente dai loro modelli, dalle loro ricette, mentre il paese nel suo complesso non è affatto in fallimento e lo sa, confusamente, ma lo sa e lo sente. Eccolo qui, Emmanuel Macron, che si è presentato ovviamente con la moglie, Brigitte Rogneux, con tutte anche le polemiche del caso, la differenza d'anni di 24 anni, la sapete ormai. Certo, Anais Ginori su Repubblica si interroga cosa farà ora il presidente. Dovrà presentare la squadra di governo, i rapporti con l'Unione Europea, il mercato del lavoro, la riforma del mercato del lavoro per avere flessibilità nella contrattazione aziendale, nelle assunzioni, è uno dei primi punti. In campo economico sulle tasse vuole abolire la tassa sulla casa per l'80% delle famiglie e riportare l'imposta sulle società dal 33 al 25%. Vuole avviare un'integrazione rafforzata dell'Eurozona con un ministro delle finanze e un Parlamento specifico, dunque rapporti per riformare l'Europa. Queste le priorità per Macron, secondo Repubblica. E ovviamente ci sono già i Toto Premier, e devo dire che i Toto Premier sono tutti circa sessantenni, ecco. Quindi insomma lui giovane sarà circondato anche dai giovani, ma ministri un po' più âgé, diciamo così. C'è un'intervista sempre di Stefano Montefiore sul Corriere della Sera a Jacques Lang, 77 anni, figura storica, socialista della politica francese, che esulta sul Corriere e dice: «Mi sembrava un'assurdità far vincere Marine Le Pen, impossibile da realizzare in un paese come il nostro. La Francia è ostile alla xenofobia e all'esclusione, alcune frange della popolazione sono in difficoltà per molti motivi, posso capire che votino per il Front National, ma ha vinto l'Europa, ha vinto Macron». Ha perso invece Marine Le Pen, indomabile però, perché vuole rifondare il fronte. Tra l'altro sul Corriere si riporta anche, ormai bisogna dire un po' l'astio di papà Le Pen, Jean-Marie, 88enne, che in un'intervista al Sunday Times consuma la sua vendetta sulla figlia Marine. Sapete che i due non hanno ormai più rapporti e Marine Le Pen dice: non intendo neanche più averne. Marine non sarà mai all'altezza. Così sentenziò Jean-Marie Le Pen. E vabbè, insomma, qui si entra anche qui in situazioni familiari che evidentemente vanno approfondite. Intervistato anche Enrico Letta, ex premier italiano che vive a Parigi ormai gran parte del suo tempo, viene intervistato dalla Stampa da Fabio Martini. Cosa dice Enrico Letta a pagina 7? È una lezione anche per l'Italia. L'europeismo è la carta vincente per battere i populismi. Si è preso un rischio enorme, dice Letta. Qualsiasi guru americano lo avrebbe sconsigliato a intraprendere una via così rischiosa. Ma ora lui, cioè Macron, è legittimato sulla base di un rischio e per questo è molto più forte. Proprio per il modo in cui ha vinto può diventare un'icona globale come Trump, come Merkel, come Trudeau. E poi ha vinto mettendo l'Europa al centro. Dice Enrico Letta, bisogna che l'euro diventi da strumento di austerità a strumento di crescita. Macron ha la competenza per un disegno di questo tipo. E guardando all'Italia, di fronte alla domanda di Fabio Martini, se Macron dice l'Europa ci protegge, Renzi risponde l'Europa sì, ma non così. E allora dice Enrico Letta, a volte in politica i simboli sono fondamentali. A Parigi, fuori dell'Assemblea Nazionale, ci sono 5 bandiere, 4 francesi e una dell'Unione. Macron ha ostentato in tutti i comizi l'esposizione di un numero pari di bandiere. Una bella lezione per l'Italia, dove, se si esclude qualche convinto europeista, la sfida è tra eurofobici, euroscettici, eurotimidi. Insomma, dice Letta, non è vero che l'europeismo non paga elettoralmente. La vittoria di Macron starebbe un po' a simboleggiarlo. Mentre, sempre per quel che riguarda interviste, Giorgia Meloni, che tifava Le Pen, intervistata da Massimo Rebotti sul Corriere della Sera, fa questa considerazione. Siamo donne nate dalla parte sbagliata. Il femminismo ideologico ha ritenuto che la corsa di Marine non fosse meritevole di solidarietà. Mi dispiace, mi colpisce, ma non mi stupisce. Certo, una presidente di Francia donna sarebbe stata una bella rivoluzione. Va bene, lasciamo la Francia, veniamo all'Italia e subito vi accolgo con la notizia che mi fa pinzore della giornata prima di andare in pubblicità. La notizia da Mani sul Volante che riguarda il terremoto recente in provincia di Macerata e non solo. La stampa racconta la storia di questo ristorante a Pieve Torina. Lo Stato non paga il conto, chiude il ristorante del sisma. Era l'unico ristorante aperto dopo il terremoto ed era aperto perché i titolari avevano deciso di tenerlo aperto anche grazie a un finanziamento dello Stato e si facevano ogni giorno 200 chilometri perché erano sfollati anche loro 100 chilometri andare e 100 chilometri a tornare per servire 200 pasti al giorno per i soccorritori. Noi non siamo mai venuti meno, nemmeno durante le feste, al nostro dovere, dicono i ristoratori. Ma improvvisamente, da dicembre, lo Stato ha deciso di non pagare più nulla. Aveva dato 150.000 euro di crediti, ora zero. Sono finiti. E i ristoratori dicono, così dobbiamo chiudere. E i soccorritori rimarranno senza pasti? Non si sa. Però lo Stato non paga il conto e chiude il ristorante del sisma. Agghiacciante quello che dicono, è una vergogna. State ascoltando un programma offerto da Centrosoftware.com, il miglior ERP per il successo della tua impresa. Alino Milan, l'enfant terrible dell'informazione. Vabbè, ci sta oggi in giornata di presidenziali francesi. Allora, se veniamo in Italia, invece ieri il Partito Democratico ha vissuto la sua Assemblea Nazionale con la proclamazione ufficiale di Matteo Renzi, segretario del partito, e poi tutte le altre cariche, con sui giornali i riflessi di quello che è il discorso di Renzi. Intanto sulla legge elettorale, il tormentone che tormenta generazioni e generazioni, mamma mia ragazzi, la legge elettorale. Allora, dal palco dell'Assemblea Nazionale del PD, racconta Maria Teresa Meli sul Corriere della Sera, pagina 12, il neoeletto Renzi, che oggi inaugurerà la segreteria incontrando Barack Obama a Milano, lancia due messaggi chiari. Il primo è rivolto a Mattarella. Lo stallo sulla legge elettorale è colpa delle opposizioni. La cosiddetta coalizione del no, la chiama Renzi. Devono riprendersi l'onere di fare una proposta perché il PD non farà il capro espiatorio come Malossène. Il secondo destinatario è il governo. D'ora in poi sarà messo sotto osservazione e incontrerà settimanalmente la segreteria e i gruppi parlamentari. Il primo appuntamento è già fissato a giovedì. Ecco, in genere si dice giovedì gnocchi, invece giovedì incontro con il governo. Il titolo, la legge elettorale dipende dagli altri e Renzi vara la cabina di regia sul governo. Questo è un po', sono i due punti fondamentali. Il messaggio a Mattarella, tra l'altro sulla stampa si fa notare che è un messaggio anche discretamente poco istituzionale, e cioè con un linguaggio, come dire, ma abbastanza esplicito e chiaro da parte di Renzi, no? Il messaggio è un po' irrituale, anche il modo in cui ci si rivolge al capo dello Stato, come dire, la colpa è degli altri, anche perché, dice Renzi, noi siamo in minoranza al Senato. Ovviamente a che cosa si riferisce? Non tanto ai numeri in generale, ma al fatto che nella cosiddetta commissione affari costituzionali, la cosiddetta elezione, quella, vi ricordate, in cui è stato votato un candidato che non era il candidato voluto da Renzi, ecco, in commissione affari costituzionali siamo in minoranza. Questo è il senso del non dipende da noi che non abbiamo la maggioranza. Ecco che Fabio Martini, proprio sulla stampa, racconta, pagina 8, la sfida tattica al colle: si può votare senza riforma, e i toni senza precedenti usati da Renzi. E poi c'è appunto questa cabina di regia sul governo, per cui da una parte Gentiloni arriverà al 2018, questo ha detto, infatti è il titolo di Repubblica di pagina 12. In realtà questa cabina di regia, tanto che Vanda Marra sul Fatto Quotidiano la mette così: Renzi ingabbia Gentiloni col governo del giovedì. E cioè, dobbiamo organizzare un metodo di lavoro settimanale per lavorare assieme al governo. Questo metodo di lavoro settimanale, ma chissà a che cosa porterà, se porterà a una collaborazione, se porterà in qualche modo a una tensione. Staremo a vedere. Intanto i temi più caldi sono i soliti: l'immigrazione. C'è stata un'ondata record di sbarchi, 7.300 persone in questo weekend. È la cifra che è messa nel titolo di Repubblica. A pagina 15 Alberto Custodero racconta: finita la tregua. 7.300 migranti a bordo di 51 imbarcazioni sono sbarcati tra venerdì e domenica sulle coste italiane. Le imbarcazioni della Guardia Costiera non sono riuscite a salvarli tutti, un gommone era sgonfio per metà, i 61 sopravvissuti hanno riferito che 80 di loro sono annegati. Tra i migranti sbarcati ci sono anche 20 donne in gravidanza, di cui 11 con minacce di aborto. Sono state trasferite d'urgenza in ospedale. In ospedale anche 9 uomini vittime della violenza degli scafisti, ferite di armi da taglio e bastoni. Ma questa, mentre ci si interroga, e poi la quotidianità, l'emergenza, la difficoltà. 7.300 persone arrivate anche in queste condizioni, alcune di loro, cioè disperate, sulle nostre coste. Se veniamo ai temi economici, oggi il Corriere della Sera si interroga sotto questo titolo di politica economica, una pagina a cura di Enrico Marro, a pagina 17, perché non parte l'anticipo pensionistico, l'APE agevolata? Il decreto è bloccato. Il capitolo più importante della riforma, che punta a introdurre elementi di flessibilità nella legge Fornero, cioè l'APE agevolata o social, cioè la possibilità per determinate categorie di lasciare il lavoro già a 63 anni prendendo dallo Stato un assegno non superiore a 1.500 euro lordi al mese fino al compimento dei requisiti per la pensione di vecchiaia, che scattano a 66 anni e 7 mesi. Perché non parte? Allora, l'assegno è previsto per 4 categorie: disoccupati senza più ammortizzatori, invalidi civili, lavoratori con parenti di primo grado disabili a carico, addetti a attività particolarmente gravose per almeno 6 anni negli ultimi 7. Il regolamento applicativo dell'APE, cioè un decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è stato inviato dal Governo al Consiglio di Stato solo il 19 aprile scorso. Eppure Palazzo Chigi avrebbe avuto tutto il tempo per chiudere la partita, visto che la legge di bilancio è stata pubblicata nel 21 dicembre 2016, quindi sono passati 4 mesi. Con una procedura d'urgenza il Consiglio di Stato ha dato il proprio parere il 26 aprile, A quel punto però la faccenda si è complicata, perché la Suprema Magistratura ha mosso rilievi sostanziali a questo decreto. In particolare è stata definita illegittima l'inclusione tra i beneficiari dell'APE degli operai agricoli e di coloro che non hanno i requisiti del NASPI, l'indennità di disoccupazione, purché siano senza lavoro da più di 3 mesi. Tale ampliamento della platea si può fare solo cambiando la legge e non con un semplice regolamento, e dunque è tutto fermo. Il 1° maggio è passato, le domande non si possono presentare, ora si pensa di dare più tempo del previsto per presentarle, quindi il 15 o 31 luglio anziché il 30 giugno. Insomma, questa vicenda dell'APE social, di cui ci parla sempre il nostro Mauro Meazza, è un po' bloccata. Mauro, che gran bel weekend, signori! Caro Alessandro, vorrei, mi scuso con gli ascoltatori a quest'ora del mattino, ma vorrei salutarti con il verso di Virgilio a questo punto. Sì, ottimo. Solacium miseris socius sabere penantes, sì. Che significa appunto consolazione dei poveri in spirito, avere compagni di sventura. E questo mi sembra che ben descriva la nostra situazione calcistica, se a questo ti riferivi. Se invece volevi parlare dell'APE, avrai seguito in questi giorni, come ci informa puntualmente Davide Colombo, che un pezzettino è andato avanti, altro invece è rimasto indietro. Insomma, vedremo se prima o poi quest'APE volerà come la Vispa Teresa, in qualche come modo. Come il Genoa, volerà come il Genoa. Come ad esempio un qualche insetto romano, tanto per dire, una città a caso naturalmente. Va bene, ma avendo cominciato con dei versi di un grande poeta, vorrei venire invece ai miei personali versi. Non sono io un grande poeta naturalmente, ma mi esercito, un giorno mi farò. Vado a leggere anche contro il tuo parere, naturalmente, caro Alessandro. Sì. Affascinati da straniera lingua, inaugurammo la spending review, ma il sole oggi ti mostra che si impingua poco il risparmio, la spesa invece più. Saranno le pensioni, ma son basse, o gli esodati o tutta la PA, ma qui tengono botta ancora le tasse per sostenere lo debito che si ha. Persino le famiglie, pure quelle, lo apprenderai quest'oggi con sconforto, si trovano con i loro NPL, che vuole dire ti pago a babbo morto. Presto verrà l'estate che ci ammalia e il volto a ognun farà più sorridente, anche perché rinnoverà Equitalia, lo scrivono Marco Mobili e parente. Intanto non restare alla finestra, non perderti l'esperto che ti spiega gli sconti per la scuola e la palestra che il fisco per i figli non ti nega. Infine, come vuol la tradizione, gli ultimi versi di sapor calcistico. Se il mio penar ti dà soddisfazione, tu fatti 4 passi in mezzo al traffico. Alessandro, Milan è la legittima difesa dell'informazione. Non è male questa, non è male. Grazie cari ascoltatori, potete mandare le vostre sigle al 349-238-6666, un numero WhatsApp belle in audio come queste, chiare, precise. Allora, vi segnalo alcuni articoli di cronaca, sempre per l'economia e per il caso Alitalia. Filippo Santelli su Repubblica oggi fa un po' di calcoli. Alitalia ha bruciato dall'inizio del 2017 altri 200 milioni solo nel primo trimestre del 2017. Pensate un po' se fosse il salumiere sotto casa vostra. Cosa succederebbe se... Vabbè, le cifre magari abbassatele, non so, 200 milioni. Se il vostro salumiere sotto casa perdesse i primi 3 mesi 50.000 euro, cosa farebbe secondo voi? Chiuderebbe? L'inizio del quarto mese lo trovereste con la serranda abbassata. Ma si sa, all'Italia è una cosa diversa. Comunque, Filippo Santelli, all'Italia ha perso circa 500 milioni nel 2016... e altri 200 solo nel primo trimestre del 2017. Bastano queste cifre a spiegare l'urgenza con cui si sta muovendo i commissari Gubitosi, Laghi, Paleari per individuare i primi costi da tagliare. in cima alla lista gli onerosi contratti derivati su carburante e tassi di cambio e la convinzione di poter trovare una soluzione a stretto giro entro la fine della settimana. Se quegli strumenti di assicurazione stipulati con diverse banche, italiane e straniere, potranno, come sembra, essere qualificati come contratti finanziari, il commissario avrà la facoltà di scioglierli in maniera unilaterale, senza penali. Una mossa che, ha spiegato Gubitosi, potrebbe bloccare un'emorragia da 120 milioni di euro. Più difficile invece la revisione degli accordi industriali di leasing, gli affitti degli aerei stipulati dalla controllata irlandese di Alitalia. I consulenti legali li stanno studiando, ma è probabile che stracciarli costerebbe caro. L'alternativa è sedersi al tavolo con le società di leasing e rinegoziarli a condizioni più vantaggiose di quelle attuali, fino al 15% più care rispetto alla concorrenza. Questi sono dunque i primi passi su dove tagliare. A proposito di tagliare, prima abbiamo parlato dello Stato che non paga più e quindi il ristorante del maceratese deve chiudere. Ora invece, sempre una vicenda di terremotati, questa volta dell'Aquila, il terremoto del 2009 con 309 vittime, lo Stato che ha pagato e vuole indietro i soldi. Perché? Perché lo Stato pagò la provvisionale alle vittime, ai familiari delle vittime, per il processo alla Commissione Grandi Rischi. Quando ci fu la condanna in primo grado, il giudice stabilì provvisionali immediatamente esecutive a favore di 93 parti civili, somme da 80 a 200 mila euro in base al grado di parentela. Poi c'è stata la Corte d'Appello che ha ribaltato quell'impostazione, assolvendo 6 dei 7 imputati. E quindi lo Stato rivuole indietro i soldi delle provvisionali pagate dai terremotati. È il titolo di Repubblica, pagina 11, lo Stato rivuole i soldi dai terremotati. Che qui, voglio dire, dal punto di vista tecnico, è anche una questione tecnicamente, come dire, ineccepibile, lo so, mi fa male dirlo, però capisco le vittime che dicono non pensavamo si arrivasse a tanto, perché la sentenza non ha revocato i risarcimenti. Ah, questo è un punto però non secondario. Dopo l'assoluzione della Commissione Grandi Rischi, Palazzo Chigi chiede indietro le provvisionali pagate. Lo Stato rivuole i soldi dai terremotati. Questo pagina 11 del Messaggero, che dedica una pagina a questa situazione. Per quel che riguarda la cronaca, invece, continuano le polemiche sull'incendio di Pomezia, anche perché si è scoperto che c'è dell'amianto. E dunque brutte notizie: nelle coperture del tetto dei capannoi della Eco 10 era presente amianto incapsulato, me l'hanno confermato i vigili del fuoco, questo rivela il direttore del Dipartimento Prevenzione dell'ASL Roma 6, Mariano Sigismondi. Quindi si dovrà valutare l'effetto del calore sprigionato dall'incendio su questa particolare sostanza. Dunque è stato smentito l'amministratore dell'azienda di stoccaggio e smaltimento di Pomezia, Antonio Bongiovanni, che aveva escluso la presenza dell'amianto. L'amianto c'è, questo almeno secondo i vigili del fuoco e a quanto riporta il direttore dell'ASL. E quindi nell'incendio di Pomezia sui tetti c'era amianto, le scuole chiuse nell'area. Ovviamente i timori anche della popolazione: è stata per esempio vietata la raccolta di ortaggi, è stato vietato il pascolo per gli animali. Il rischio è che questa cosa abbia ovviamente delle ripercussioni sulla salute di tutti coloro che sono delle zone circostanti, e dunque questi sono i divieti che sono stati dati. Oh, c'è la polemica poi, la polemica per Obama. Ma io dico, ma perché? Allora c'è Obama a Milano, e va bene, domani farà il suo primo discorso pubblico. Sapete, i presidenti americani guadagnano abbastanza, ma non tantissimo quando sono presidenti americani. Adesso la cifra non la ricordo, ma non sono cifre spropositate di milioni di dollari assolutamente, credo sia sui 200.000 dollari l'anno. Poi cosa fanno? Capitalizzano quando hanno finito, quando non sono più presidenti, vanno in giro per il mondo e fanno degli speech. La polemica perché Obama prenderebbe 400.000 euro per uno speech, se a me paiono anche pochi. Io, se fossi Obama, mi suggerirei di chiedere un 600.000, anche fino al milione di dollari. Secondo me ci si può spingere e secondo me c'è qualcuno che glieli dà. E quindi buon per lui e per la sua famiglia. Basta questa invidia sociale. Buon per lui e per la sua famiglia. Se gliene danno 2 milioni, buonissimo per lui e buonissimo per la sua famiglia. Oh, comunque, per andare a vedere Obama domani a Milano, costo 850 euro a biglietto. Anche qui, vuoi andare? Paghi. Non te ne frega, non hai soldi, non sei obbligato. Non andare. Non è una cosa per tutti democratica. No, vuoi andare a vedere Obama? Costa 850 euro. Ce li hai? Ti piace? Li vuoi spendere? Vai. Non ce li hai? Non importa, non vedrai Obama, vivrai benissimo lo stesso, sereno. Ma siamo alla carta costa, l'articolo più utile sui giornali, eccoli qua, Fedez e Ferragni sul Corriere della Sera, mezza pagina sulla dichiarazione show di Fedez che ha chiesto la mano alla Ferragni. Saranno sposi felici? Ma chi se ne frega!